Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quella di oggi è una delle nostre puntate speciali completamente dedicata ad Expo 2015, realizzata nel nostro studio allo spazio Regione Emilia Romagna in Expo. Mi scuso subito per la voce, questi sono i mali di stagione, li ho subito acchiappati al volo, dovrete scusarmi. Siamo andati a caccia di curiosità, nuove tendenze e qualche dritta d'autore per esplorare l'evento protagonista di questi mesi e le riflessioni che ruotano intorno al mondo del cibo, della sostenibilità e dell'innovazione. Allora partiamo subito dal fenomeno Giappone, sicuramente il padiglione più gettonato insieme a Palazzo Italia, quelli di Emirati Arabi e Kazakistan, fino a 7 le ore di coda per visitarlo, 17.000 pezzi di legno incastrati tra loro a formarne la struttura, materiali naturali e contenuti multimediali all'insegna del tema scelto, quello della diversità armoniosa, un padiglione poetico, oserei dire, che ha catturato l'attenzione di molti e che racconta anche in qualche modo del fascino, del boom della cultura e della tradizione giapponese nel nostro paese. Basti pensare alla cucina, ma anche al cinema, all'animazione con il fenomeno dei manga, alla letteratura con il fascino degli haiku, le poesie da tre versi, e poi pensiamo alle arti marziali, al make-up, alla moda. L'elenco è veramente lunghissimo. Perché questo boom, a che cosa è dovuto? Lo chiediamo ad un'esperta, Keiko Andomei, che è la direttrice del Centro di Cultura Giapponese a Milano. Buonasera Keiko. Io penso che da questa popolarità sulla cultura giapponese era innanzitutto la gente 40 anni o più giovane ha cresciuto grande e vedendo proprio manga giapponese, come ha detto lei, e quindi il primo contatto è sicuramente da cartoni animati, e poi sono nati l'interesse per la cultura generale e stanno scoprendo proprio recentemente i valori della cultura giapponese, e questo mi fa molto piacere. 40 anni fa, quando lei arrivò in Italia, gli italiani avrebbero fatto 7 ore di coda per entrare in uno spazio in cui comunque viene raccontata la cultura, la tradizione del cibo giapponese? No, non credo assolutamente, perché racconterò da una cosa, da mia esperienza. Sono arrivata a Milano di anni 70, diciamo metà degli anni 70, e molte persone confondevano Cina e Giappone, Thailandia, ecco, non c'era questo chiarimento. Sushi, ma non solo, dal tofu agli edamame, che sono i fagioli di soia, passando anche per la zuppa di miso. Insomma, la cucina giapponese sta riscuotendo un grande consenso, è stata riconosciuta patrimonio dell'UNESCO, è una delle porte d'ingresso per l'universo del Giappone, oltre ai manga che già lei ha citato? Assolutamente sì, perché e soprattutto cucina giapponese non solo buono, ma anche da noi diciamo mangiamo con gli occhi, come da una pittura tradizionale giapponese sul piatto creano una bellissima immagine. Esempio, tanti anni fa io e mio marito siamo andati a un piccolo paese, Nord 18, e abbiamo scelto questo albergo perché davanti al quale è trovato da un grande acquario. Allora mio marito amano mangiare pesce, e però cena sempre portava pesce piccoli. Allora lui ha detto: per favore, io vorrei mangiare bel pesce. Allora quella sera ha portato una, diciamo, dal piatto circa da veramente un metro grandezza. Era sale fatto come una spiaggia, e questa orata sembra muoveva, e davanti c'era il fiore Ikebana, era proprio un quadro. Grande maestria, grande senso dell'arte. Grazie a Keiko Andomei per essere stata con noi. Grazie. Grazie Keiko. Grazie. Grazie. Altro luogo simbolo di Expo 2015, l'albero della vita, conteso a colpi di selfie, vera star sui social network. Un fenomeno osservato con interesse anche dagli esperti di marketing della Bocconi come Stefano Pace. Sentiamolo da Expo Blog. Possiamo immaginare il visitatore come un consumatore simbolico. Vale a dire, una persona che vive questi simboli a diversi livelli. L'elemento più importante, la fase più interessante in cui il consumatore va a elaborare i simboli di Expo è sicuramente l'aggregazione intorno all'albero della vita. È in quel momento, in questa sorta di rito notturno, che migliaia di persone, attraverso molteplici vie, vanno ad aggregarsi insieme intorno al simbolo forte di questo Expo. Quindi possiamo dire che è l'albero della vita a rappresentare il consumo simbolico più evoluto e più sofisticato da parte del visitatore di Expo, e lo porta a un concetto di un'emozione di sublime e di stupore che rappresenta in qualche modo la base emotiva per le pratiche di sostenibilità del futuro. Altro fenomeno legato ad Expo, meglio fenomeno food che ritroviamo in Expo, lo street food, il cuore possiamo dire di ogni cultura culinaria, fonte d'approvvigionamento per molte pause pranzo nel mondo. Sempre più persone però il cibo al lavoro se lo portano da casa. Per citare ancora il Giappone mi vengono in mente le bento box. Noi allora abbiamo invitato in collegamento telefonico il re della lunch box, anzi il personal trainer della schiscetta, così si autodefinisce, così si chiama in milanese il pranzo da casa, Alessandro Vannicelli, food blogger, è l'ideatore di schisciando.com. Ben trovato Alessandro. Ben trovato a voi, a tutti, buonasera. Allora, tu definisci la schiscetta uno stile di vita, perché? Sì, ma diciamo che è uno stile di vita per un motivo semplice. Io quando mi sono trovato di fatto a voler, essendo un appassionato di food, di spignattamenti diciamo in cucina, volevo dimostrare veicolare questa passione in un blog. E quando mi sono trovato a confrontarmi con questa mia passione, ho detto perché non fare qualcosa che sia vicino alle mie abitudini, ma anche a quelle dei miei amici, dei miei colleghi di ufficio. Siccome la schiscetta era una abitudine che mi era stata tramandata quasi come gli indiani per via orale da mio padre, mi è sembrato giusto andare un po' a elevare quel concetto che mi è sempre stato caro. E la schiscetta è uno stile di vita perché è uno stile di vita ormai di tutti i giorni, urbano, e comunque sia consapevole, perché si è consapevoli di quello che si porta in ogni pausa pranzo. In questi mesi, Alessandro, ti sei lasciato ispirare da Expo. Che cosa hai assaggiato? Il lobster roll, il panino con l'aragosta degli Stati Uniti? Ah, bravissima. Bene, lo sapevo, da gourmet lo sapevo che eri andato lì. Il croco burger dello Zimbabwe? No, quello no purtroppo. Quello... il lobster roll è stato uno dei primi pranzi che ho degustato lì ad Expo. All'interno del padiglione USA. Ecco, intanto qui in studio Carmelo Lauricella mi guarda male, il croco burger, no, assolutamente. Alessandro, anche la schiscetta può diventare in qualche modo identitaria come il regime alimentare, cioè siamo vegetariani, siamo i crudisti, ci sono tutte queste tribù, no? Anche nel mondo schiscetta ci sono? Beh, certo, quello sì, nel senso, partiamo dal presupposto che, esempio, uno studio che è uscito anche di recente dimostra che di fatto un italiano su tre circa comunque si porta il pranzo da casa. Questo non è una novità, è comunque sia la conferma che c'è una tendenza di fatto ormai a portarsi la schiscetta da casa, perché in qualche maniera si vuole essere più consapevoli di ciò che si mangia, per cui anche le varie fazioni, chiamiamole così, in maniera simpatica, di crudisti, piuttosto che vegetariani, vegani, onnivori come me, e via dicendo, trovano anche nella schiscetta un alleato comunque sia utile per la vita di tutti i giorni. Ottimizzazione quindi delle risorse, assolutamente, di tempo e di denaro, perché no, insomma, perché anche un bel risparmio. Grazie ad Alessandro Vannicelli per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché tra poco parleremo di Internet of Food, delle contaminazioni tra cibo e arte e degli ingredienti preziosi. Essere e avere. Mi chiamo Flint Lockwood e ho sempre cercato di inventare qualcosa di incredibile. Trasmutazione dell'acqua in cibo. Per la prima volta nella mia vita, tutti amano una cosa che ho fatto io. Posso avere le calde? Carne! Vado pazza per la gelatina! Mamma mia! La macchina decide da sola! Presto, sarete nell'epicentro di una tempesta perfetta di cibo! Quando si parla di cibo e tecnologia, in molti pensano alla sofisticazione, alla manipolazione. Invece c'è tutto un mondo di start-up e iniziative legate alla cosiddetta Internet of Food o New Food Economy, che guarda all'innovazione nel cibo all'insegna della sostenibilità, della sicurezza, della trasparenza e anche di nuovi modi di produrre, trasformare, distribuire e consumare il cibo. Marco Gualtieri è il fondatore di Seeds and Chips, l'evento in cui cibo e tecnologie digitali si incontrano. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Allora, su che cosa sta puntando l'innovazione nel cibo in questo momento? Sui metodi di coltivazione tecnologici, sulle piattaforme di distribuzione, penso alla scommessa dell'e-commerce per il fresco, sulla tracciabilità, su che cosa? Ma in realtà, come è stato appena detto, su tutto, tutta la filiera dal campo, quindi dall'agricoltura fino alle cucine di casa nostra, sta per essere innovato, rivoluzionato da start-up e da innovatori che stanno cercando di migliorare i processi produttivi. Sicuramente l'agricoltura è quella che ne ha più l'esigenza e su quale c'è molto fermento, perché oggi grazie all'agricoltura di precisione, quindi sensori, droni e software, si può intervenire, si può produrre cibo in maniera molto più sostenibile, senza utilizzare pesticidi e erbicidi, o comunque in maniera molto limitata, e anche ottimizzando l'utilizzo dell'acqua. Su uno scenario che vede protagonisti, Expo lo testimonia, temi quali sostenibilità, sicurezza alimentare, lotta agli sprechi, redistribuzione, che ruolo può avere la tecnologia, il digitale? È un ruolo assolutamente fondamentale, al di là di una presa di coscienza collettiva, di un'evoluzione culturale per essere molto più attenti e sensibili a questi temi, evidentemente la soluzione pratica e concreta può avvenire grazie all'utilizzo di tecnologie e grazie soprattutto alla rete, per quello che si parla di Internet of Food, l'impatto che la rete può dare nel sviluppare servizi o innovare processi che prima, fino a qualche tempo fa, non era possibile. Oggi, anche sul tema per esempio della lotta agli sprechi, ci sono delle situazioni straordinarie. Pensiamo alla Minute sotto casa, a My Foodie, che stanno in tempi velocissimi e molto recenti, stanno aiutando a ridurre la lotta di spreco nella distribuzione con numeri molto significativi. Siamo solo all'inizio di un processo che diventerà molto grande, avrà, come dicevo prima, un impatto molto positivo in tutta la filiera. Lei ha lanciato un'idea per il dopo Expo, trasformare l'area nella Silicon Valley del food. In un minuto raccontiamola. La speranza è che il sito di Expo diventi una cittadella dell'innovazione, con start-up, centri di ricerca, università e imprese per presidiare e sviluppare l'innovazione nella filiera agroalimentare. Marco Gualtieri, grazie. Grazie a voi, buona serata. Focus sui trend. Dai ristoranti, nei musei, ai locali, gallerie d'arte, dagli ingredienti a 24 carati, chiamiamoli così, ai panini stellati, anche il cibo gioca su preziosità e lusso. Questo è il trend che abbiamo individuato grazie a Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Ciao Paolo, bentrovato. Bentrovati a voi. Da dove iniziamo? Allora, iniziamo dal vedere che quello che si vede, che abbiamo visto a Expo, ma anche quello che vediamo sulla stampa, quello che vediamo anche nei ristoranti, nei locali più interessanti, è questa proprio preziosità, come dicevi tu giustamente. Abbiamo degli ingredienti che diventano quasi dei gioielli, diventano quasi delle pietre preziose. Non necessariamente sono cose costosissime, possono essere anche ingredienti più o meno comuni, come ad esempio, insomma, mi viene in mente il cavolo nero, la rapa rossa, che non a caso vengono utilizzati sia per le loro componenti nutritive, per la ricchezza di quello che possono dare al corpo, ma anche per la loro bellezza, per il loro colore, esattamente come si fa con le pietre preziose, come si fa con i materiali preziosi. Poi ci sono anche tanti piccoli ingredienti dettaglio, come magari possono essere le spezie, non so, la curcuma ad esempio, che ha delle grandissime proprietà antiossidanti, oppure le bacche di goji, che da prodotto di super nicchia adesso sono diventati un power food che possiamo trovare anche nei supermercati. Ma questo discorso può essere fatto anche per semi, bacche, germogli di vario genere, quindi piccoli dettagli, piccoli elementi, piccole cose che possono diventare letteralmente l'elemento prezioso che arricchisce letteralmente il nostro cibo. Bellissima Paolo questa definizione di power food, penso mi hai fatto venire in mente i pistilli di zafferano, di peperoncino che decorano tra l'altro così bene il piatto e danno un sapore completamente diverso a quello che può essere invece la spezia nella sua forma diversa, originaria. Parliamo anche dei ristoranti nei musei e dei ristoranti galleria ai quali abbiamo accennato in attacco. Esatto, ci sono dei ristoranti che nascono come veri e propri luoghi di espressione creativa che va al di là della semplice cucina ma che arriva a toccare anche l'arte. Mi viene ad esempio in mente il ristorante Sketch di Londra che regolarmente cambia il suo allestimento, sempre realizzato in collaborazione con grandissimi artisti contemporanei. Quindi si va al ristorante per mangiare, ma con lo spirito con cui si va in una galleria d'arte. Ormai è diventato uno dei posti da visitare a Londra al pari della Tate Modern o al pari della Serpentine Gallery. Quindi è un luogo in cui il cibo chiaramente deve essere in linea con la preziosità, l'esclusività, la rarità, ma che può essere fruita da chiunque voglia andare, perché da Sketch si può andare anche solo per un aperitivo, chiaramente non necessariamente per un pasto completo che, come potete immaginare, ha un costo non necessariamente accessibile. Però alcuni ristoranti diventano anche delle installazioni di arte contemporanea, se vogliamo, dei padiglioni di arte contemporanea. Penso ad esempio al ristorante Shishi di Shanghai, che è stato recentemente aperto da questo imprenditore italo-cinese, è realizzato nella concessione francese, quindi in uno dei quartieri più cool della città, riproduce una casa, perché è realizzato all'interno di quella che era una casa di fine Ottocento, e i proprietari si sono immaginati questa signora Shishi che accoglie le persone nella sua casa, quindi c'è la sala da pranzo, c'è la cucina, tutto il ristorante si sviluppa, diciamo, in questa dimensione molto domestica, super raffinata. Un esempio, alle pareti ci sono le carte da parati di Fornasetti, quindi insomma con un tocco artistico molto alto. Finita la cena si può andare al piano di sopra, dove in quella che era la camera da letto è stato ricreato un wine bar, quindi insomma si può, luci soffuse, liquori e vini di grande qualità, si può stare nell'area di riposo della casa e continuare questa esperienza, che diventa una vera e propria esperienza quasi artistica. Grazie a Paolo Ferrarini, indicazioni preziose per stare in tema, come sempre. Alla prossima, Paolo. Grazie, a presto. Il consumautore. E per la nostra riflessione finale ci affidiamo, come sempre, a Francesco Morace, il nostro ospite fisso, venuto a trovarci anche qui in Expo. Grazie, ciao Francesco. Grazie a te Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora, una bella sfida vinta per il paese. Una bella sfida vinta con caratteristiche che abbiamo peraltro ascoltato nel corso di tutta la tua trasmissione, perché da un lato c'è questa idea di impresa, di sfida, di tecnologia che il mondo del cibo solo negli ultimi anni ha in qualche modo lanciato, e dall'altro devo dire sono i sorrisi delle persone che incontri qui ad Expo, il desiderio e la passione di approfondire la conoscenza ma anche il divertimento. Ecco, mi sembra questa dimensione pop dell'Expo che non la rende banale ma la rende davvero vissuta con felicità da tante persone. Molto bella questa sottolineatura su questo aspetto pop, qui sta sicuramente una delle chiavi del successo, che fa venir meno anche, diciamolo Francesco, un po' di puzza sotto il naso, come dire, agli organizzatori di eventi, di occasioni di confronto. Anche questo è un bel cambiamento. Questo è un bel cambiamento, e anche l'essersi smarcati da questo terrore che noi in Italia abbiamo di proporre delle americanate, no? Cioè tutto ciò che intrattiene, diverte, viene molto spesso da noi tacciato come banale, come americano. Mi sembra che invece Expo sia riuscita a trovare questo equilibrio magico tra l'approfondimento, a volte anche molto colto, di alcuni aspetti, con però una piacevolezza, e io vedo i bambini e i ragazzini che impazziscono qui ad Expo, quindi credo che questa sia uno dei motivi del successo di Expo. Intorno al cibo, al racconto sul cibo, si è creata appunto questa grande occasione di aggregazione. È stato il medium giusto, vincente per questo racconto trasversale, identitario, e così? Sì, ha saputo cogliere lo spirito dei tempi, perché tutto ciò 10 anni fa non sarebbe stato possibile. 10 anni fa il nostro immaginario era assorbito da altro, dalla moda, ad esempio, dalla dimensione più esclusiva delle grandi nicchie, magari internazionali, di esperti, intellettuali, creativi, che però erano davvero nella loro torre d'avorio. Ecco, oggi tutto questo sappiamo, anche attraverso la crisi, perché la crisi purtroppo ha prodotto disastri, ma anche, come sempre, costituito un'opportunità per un settore, quello alimentare, che veniva invece guardato negli anni precedenti dall'alto in basso. E poi diciamolo, per chiudere, in questo grande afflusso di italiani, perché sono venuti tanti italiani ad Expo, c'è anche un certo orgoglio da rivendicare in un paese in cui il nazionalismo, insomma, non è certo uno dei pregi principali. No, e neanche l'autostima. Quindi da questo punto di vista non solo ci sono tanti italiani, ma dai dati che abbiamo tanti italiani che tornano, e questo secondo me è ancora più interessante. Tornano, vogliono approfondire, condividono con i loro amici, quindi senz'altro orgoglio per il paese, ma a ragion veduta. Grazie a Francesco Morace, alla prossima. Grazie a te e a tutti, Maria Luisa. Essere Avere speciale Expo finisce qui, grazie allo Spazio Regione Emilia Romagna per averci ospitato, grazie a Carmelo Lauricella in regia, e grazie a voi come sempre che ci avete seguito. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.